Europa 24. Buongiorno, buon pomeriggio da Daniele Biacchesi, commissario europeo per gli affari interni. Avramopoulos ha illustrato oggi la roadmap europea per salvare Schengen. Il summit straordinario di lunedì a Bruxelles fra i capi di Stato e di Governo sulla crisi migratoria è decisivo, lo dice il commissario europeo per gli affari interni Dimitris Avramopoulos, annunciando la roadmap della Commissione per salvare Schengen entro dicembre. La presenza di 10.000 migranti alla frontiera tra Grecia e Macedonia ha cambiato le cose a Bruxelles e sul campo, ha detto il commissario. Ora serve un'azione rapida e sostanziale. Sono in gioco Schengen e l'unità europea. Dublin is still alive. Il regolamento di Dublino è ancora vivo, dice Avramopoulos, ma la Commissione presenterà il 16 marzo la sua proposta di riforma. Nella roadmap è anticipata ad agosto poi l'operatività del Corpo di Guardia di Frontiera e Guarda Coste europeo e i 28 dell'Unione saranno chiamati alla messa in comune obbligatoria delle risorse per creare queste forze in campo. Negli stessi minuti in cui parlava il commissario venivano diffusi i dati Eurostat sulle richieste d'asilo in Europa nel 2015, 1.255.000, un record assoluto che supera di oltre il doppio il livello di richieste presentate nel 2014. Il paese che ha ricevuto il maggior numero di domande in assoluto è stato la Germania, seguita dall'Ungheria e dalla Svezia. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. I 3 miliardi messi a disposizione della Turchia dall'Unione Europea dovranno essere sfruttati al summit tra Unione Europea e Ankara di lunedì 7 marzo. Ci informeremo sulla situazione dei migranti sul territorio turco. Così la cancelliera tedesca Angela Merkel nel corso della conferenza stampa congiunta con il presidente francese François Hollande. Nel corso del vertice affronteremo la questione su come portare i migranti dalla Grecia in Turchia, ha aggiunto la Merkel. Il Consiglio europeo ha prorogato di un anno il congelamento dei beni di 16 persone identificate come responsabili di appropriazione indebita di fondi statali ucraini o abuso in ufficio che ha causato danni alle casse dello Stato ucraino. Queste misure sono state introdotte inizialmente nel marzo 2014, confermate prima di oggi anche nel marzo 2015. Il Fondo europeo per gli investimenti, Fondo di garanzia per le PMI presso il Ministero dello Sviluppo Economico, hanno firmato un accordo che consentirà di sostenere finanziamenti per oltre 1 miliardo di euro a favore di 20.000 piccole e medie imprese italiane nel corso dei prossimi 12 mesi, lo dice la Commissione europea. Gli oltre 4 milioni di elettori slovacchi sono chiamati domani alle urne per decidere chi governerà il paese nei prossimi 4 anni. Un appuntamento ritenuto importante anche per il futuro orientamento dell'Unione Europea, dal momento che a luglio toccherà alla Slovacchia, membro dell'Unione Europea dal 2004, dell'Eurozona dal 2008, assumersi per la prima volta della presidenza di turno dell'Unione Europea. Favoriti i socialdemocratici del premier Robert Fico, ma non ci si aspetta un risultato forte come nel 2012, tale da permettergli di formare un governo monocolore. Questa sera torneremo ad Effetto Notte con una nuova pagina europea con l'anticipazione del Euroreportage di domani mattina. Europa 24. In collaborazione con Euronet Plus.